Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, sapete quale mercato automobilistico sta diventando totalmente ecocompatibile grazie a ibrido, biogas e altre tecnologie amiche dell'ambiente? Il mercato degli autobus. Ne parliamo oggi con il brand president di Iveco, Pierre Laut. Buongiorno. Buongiorno. Che ci spiegherà come si sta evolvendo il mercato degli autobus e dei camion e anche come ciò incide sulle modalità di fabbricazione degli stessi. Ora, va ricordato che Iveco è uno dei marchi più gloriosi che abbiamo in Italia. Stiamo parlando di un colosso da circa 10 miliardi di euro con 25.000 dipendenti nel mondo, quindi un punto di forza dell'industria automobilistica italiana. Iveco fa parte di CNH Industrial, che a sua volta fa parte di FCA e partecipa alla crescita del mercato della mobilità che si è verificato in questo 2015. Ricorderete, perché l'abbiamo detto in tante trasmissioni, che il mercato delle auto è cresciuto tantissimo quest'anno che è finito, 2015, si aspetta anche un'ulteriore crescita nel 2016 ed è il principale sostegno della crescita della produzione industriale e anche della crescita del PIL. È così, no, dottor Laut? Assolutamente. C'è un certo risveglio del mercato dei veicoli commerciali in generale, non solo delle auto. Il famoso Iveco Daily che voi avete. E infatti, con tutti i premi che abbiamo vinto grazie al rinnovamento profondo e decisivo della nostra gamma di prodotto, appunto con il Daily fabbricato a Suzzara e Vanover 2015 e ultimamente con l'Eurocargo prodotto a Brescia, che Truck of the Year 2016, abbiamo visto una forte crescita delle vendite, non soltanto nel mercato domestico, ma quello che è molto importante per un'azienda globale come la nostra, negli altri paesi in Europa e oltremare. Ecco, andiamo con ordine, parliamo prima degli autobus e della mobilità urbana e poi nella seconda parte della conversazione parliamo dei veicoli commerciali. Ecco, gli autobus, praticamente c'è una nuova generazione di autobus che voi proponete in giro per l'Europa che va avanti con motori ibridi o con i biogas, in alcuni casi ci sono anche degli autobus alimentati con il gas derivante dalla decomposizione dei rifiuti, è così? Assolutamente. Storicamente si è visto che si era già sviluppato e l'Italia era stata pioniera in questo dominio dei veicoli propulsati dal gas, perché molto più pulito, molto meno inquinante, e dunque è andato molto avanti l'Iveco nel settore dei bus con questa propulsione a gas, che nei ultimi mesi e anni si sono proprio risviluppati. E dove li vendete, visto che in Italia si vendono pochissimi bus? Ma i principali mercati in Europa sono Francia, Inghilterra e Germania. Noi siamo ovviamente leader in Francia, dove abbiamo dei stabilimenti storici e dei marchi storici e un leadership appunto nel gas in particolare, però si vende anche molto in Est Europa, dove sviluppiamo tanta la mobilità a base di bus, perché gli investimenti per il treno sono molto più elevati o per la metro molto più elevato. Il bus rimane un modo relativamente economico di sviluppare il trasporto pubblico. Ma come funzionano questi motori a gas? Come si fa a montare sull'autobus delle bombole gigantesche per farlo girare tutto il giorno? È relativamente semplice, si monta le bombole sul tetto del veicolo, come lo sapete un bus è relativamente basso, perché per avere un'accessibilità più facile c'è un unico grado per salire a bordo, dunque il veicolo ha relativamente tanto spazio sul tetto e si montano le bombole in questo posto lì e poi si modifica il motore per passare da un ciclo tipico diesel 8 a un ciclo benzina, perché il gas alla fine è molto più vicino alla benzina e anche per questo motivo che è molto meno inquinante che il diesel. E poi invece il biogas, che è particolarmente affascinante, questa storia di una città che con il biogas derivante dai suoi rifiuti fa girare i propri autobus, ce la racconta un po', di quale città parliamo? Allora, parliamo di Lille, nel nord Francia, al confine del Belgio. È una città che alcuni fa era il cliente storico di Iveco, ha 400 veicoli nostri funzionando a gas, e alcuni anni fa ha deciso di costruire al lato del deposito dei bus un centro di accoglienza dei rifiuti urbani con un ciclo di metanizzazione, dunque trasformazione o quindi c'è la discarica vicino al deposito dei bus. Sì, subito al lato. E questo gas che è prodotto dai rifiuti urbani, organici ovviamente, tramite questa metanizzazione, viene trasferito al deposito di bus per riempire i veicoli che tornano nella città carichi dell'energia dai rifiuti della città stessa. Beh, è un esperimento interessante, forse potrebbe interessare anche alcune amministrazioni italiane. Ah, sicuramente, più che un esperimento, è proprio un modo di operare, perché dai 400 bus, 250 funzionano solamente con questa produzione, cioè, di gas. Cioè 250 bus funzionano col gas della discarica, bellissimo. Ma è questo, voi non siete andato a proporlo ad alcuni comuni italiani? Ah, sicuramente lo proponiamo, lo mettiamo avanti adesso. Penso che l'interesse si sta svegliando, anche perché l'Italia sta sviluppando una filiera relativamente interessante di produzione di metano a base di rifiuti agricoli. È stato abbastanza avanti in questo field. Non avete ancora iniziato a parlarne a qualche sindaco italiano? Cioè siete andati a Milano piuttosto che a Torino, a Bergamo, a proporre un modello di questo genere? È vero che adesso in Italia si è forse più interesse sulla parte elettrica. Noi lì l'abbiamo sicuramente condiviso, ma c'è un grande fascino in generale per l'elettrico, molto limitato oggi. Ci vuole il filobus. Ci vuole il filobus. I filobus sono vecchi come il secolo, vecchi come il cucco, si dice da noi. In moto a Bologna, una cinquantina. Il filobus funziona perfettamente, però oggi si sogna di un veicolo elettrico senza i fili sopra. Ma perché senza i fili sopra? Danno mica tutto questo fastidio ai fili, si potrebbe tranquillamente fare una nuova linea di filobus con i fili. Sicuramente, dopo spesso lo che ci rendiamo conto è che ci sono delle resistenze, perché una volta che si deve attaccare i fili c'è tutto un patrimonio, e l'Italia ne è ricco più che tutti gli altri, e sicuramente si entra in discussione dove attaccarsi questi fili, e sappiamo che tante città purtroppo nel lungo termine li hanno smontati e non è così facile di rimetterli come erano a un'epoca. Vabbè, la devo interrompere, perché sulla storia di Iveco, che è uno dei nostri marchi gloriosi, ecco qui la prima parte di una scheda. Iveco è tra i leader mondiali nella produzione di camion e bus e rappresenta uno dei punti di forza del manifatturiero italiano. La parola Iveco è l'acronimo di Industrial Vehicles Corporation. L'azienda ha sede a Torino e fa parte del gruppo CNH Industrial, che a sua volta è una costola di FCA. CNH Industrial, guidata da Richard Tobin e presieduta da Sergio Marchionne, è quotata in borsa e ha ricavi per 32,6 miliardi di dollari. CNH Industrial è stata costituita mettendo insieme Iveco con la vecchia CNH, specializzata in trattori, macchine movimento terra e macchine per costruzioni edili. Iveco nasce il 1 gennaio 1975 dalla fusione di 5 diversi marchi: Fiat Veicoli Industriali, con sede a Torino, OM Italia, Lancia Veicoli Speciali Italia e Magirus Deutz Germania. Tutto ciò avviene per iniziative dell'ingegnere bresciano Bruno Beccaria, che sarà anche primo amministratore delegato di Iveco. Beccaria è una figura storica di ingegnere, imprenditore, dirigente, filantropo e combattente della Seconda Guerra Mondiale. È considerato fra i dirigenti che hanno prodotto gli anni migliori del gruppo Fiat nel Novecento. Dopo la fusione, la neonata Iveco avvia un processo di razionalizzazione delle gamme di prodotto, degli stabilimenti di produzione e della rete commerciale, pur mantenendo i marchi originali. Negli anni tra il 1975 e il 1979, Iveco ha una gamma di 200 modelli di base e 600 versioni, che vanno dalle 2,7 tonnellate di MTT, di un veicolo leggero, fino a superare le 40 tonnellate dei veicoli pesanti, oltre ad autobus e motori. Nel 1978 Iveco lancia il primo prodotto della gamma dei veicoli leggero a marchio Iveco, il Daily. Il prodotto, nell'idea originale, voleva essere un piccolo veicolo industriale, con caratteristiche di solidità strutturale e affidabilità. Nel giro di qualche anno diventerà uno dei prodotti e dei brand italiani più diffusi nel mondo, cosa che tuttora continua ad essere. Negli anni 80, la strategia aziendale è molto attenta alla promozione del proprio marchio e prendono il via le sponsorizzazioni di eventi sportivi, come le Olimpiadi di Mosca nel 1980, la Coppa Davis nel 1982, le spedizioni di Jacques Cousteau nel bacino dell'Amazzonia nel 1983 e il Ride Pigafetta, il cui camion Iveco Fiat 75 PC 4x4 compie per primo il periplo del mondo. Vengono inoltre create 3 nuove divisioni: motori diesel, autobus e veicoli antincendio. Rieccoci in linea con Pier Laut. Parlavamo di alimentazione elettrica degli autobus. Allora, dicevamo, i filobus sono poco graditi. Invece le batterie elettriche per gli autobus urbani funzionano con quale autonomia? Le batterie adesso sono alle fasi iniziali di sviluppo. Si deve sapere che un bus si costruisce per 12-15 anni di vita e oggi le batterie non hanno questa speranza di vita. C'è anche tante ricerche per capire la capacità di queste batterie lungo una giornata. Ci lavoriamo, sviluppiamo, ma la realtà è che questa tecnologia di batterie non è ancora matura, è costosa, molto costosa. Un veicolo a batterie costa il doppio di un veicolo standard diesel, dunque un momento di difficoltà finanziarie non è così facile o giustificabile di investire per una capienza spesso minore per il peso delle batterie stesse. Ecco, la devo interrompere perché adesso ci sono gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea con Pier Laut, brand president di Iveco, in pratica numero uno di questo glorioso marchio italiano, anche molto grande, parliamo di 9,6, quasi 10 miliardi di euro di fatturato, produttore di autobus, camion, camioncini, camion di tutte le misure, con... quanti stabilimenti nel mondo, dottor Laut? Oh, siamo oltre la diecina. Parlavamo degli autobus urbani e si diceva che il driver per il futuro è l'ecocompatibilità. Però in Italia si comprano pochissimi bus, tanto che voi avete dovuto fare una ristrutturazione degli stabilimenti italiani perché con 500 mezzi che ogni anno si comprano, quindi nulla, non valeva la pena tenerli aperti. Purtroppo è stata una delle difficili decisioni prese alcuni anni fa davanti alla scarsità del mercato italiano che era sceso a anche meno di 500 pezzi annuali. E adesso continua così? Adesso purtroppo non si è ancora ripreso, si spera molto nella nuova legge di stabilità. Il problema è questa austerità imposta dall'Europa che, limitando la spesa pubblica, poi limita anche le aziende che di spesa pubblica vivono e quindi con effetti depressivi su tutto il sistema. Uno dei motivi, anzi forse il principale motivo per cui la nostra economia non cresce è che c'è questa stramaledetta austerità imposta dall'Europa che mette questi paletti che sono assolutamente letali. Però mi domando, siccome l'austerità che mette dei limiti alla spesa pubblica c'è anche in Francia e in Germania, perché in Francia e Germania spendono soldi per comprare i bus e qui da noi no? Una delle differenze è che in Germania e in Francia, ma anche in Inghilterra, e infatti è partito questo movimento dell'Inghilterra alcuni anni fa, si è calcolato che il bus era il trasporto pubblico il meno oneroso e si è saputo proteggerlo e privilegiarlo rispetto al metro, tram e altri treni che ha un costo chilometro molto più elevato, dico una banalità, ma per un bilione di euro si fanno appena qualche centinaia di metri di metro, mentre si possono fare quasi 250 chilometri di una rete ben fatta e velocemente. E caspita, un bilione vuol dire un miliardo di euro, 2000 miliardi di vecchie lire, con un miliardo di euro hai voglia, fai più che i bus di Milano, Torino, messi assieme, varie altre città. Infatti, quando si ricorda che negli anni 90 Londra ha avuto una grande crisi del suo trasporto pubblico con tantissimi problemi sul treno, non avendo le finanze per questo sistema di treno, hanno praticamente in 10 anni raddoppiato il parco di bus, che è molto più economico, è molto più flessibile e si può espandere molto più velocemente per accogliere la richiesta dell'economia. Dunque c'è stata una politica molto più a favore del trasporto su gomma, che è molto più competitivo in fine e meno oneroso. Ecco, questi motori ecocompatibili ibrido e biogas sono fatti da voi? Iveco produce anche i motori oppure li comprate da qualche altra parte del gruppo Fiat o da parti esterne? Noi produciamo tutti i motori dentro la divisione dentro Cineca Industrial che si chiama Fiat Powertrain e che è specializzata in questi motori Powertrain molto poco inquinanti e per esempio le vende anche nel mondo intero, le città di Pechino e Shanghai sono venute dai motori di Powertrain gas per il loro nuovo bus. Cioè da voi come tramite per arrivare a Fiat Powertrain. Esattamente. Ah, interessante. Ecco, ma siccome voi siete sui 10 miliardi di euro di fatturato, grosso modo, quanto sono mezzi pubblici bus e quanto sono camion? Ma la proporzionalità è che c'è un billion più o meno di bus, un billion di specialty e 8 billion di camion. Ecco, come sta andando la produzione di camion? Ma con la ripresa economica in Europa andiamo molto meglio, incluso con quella italiana. Lei riferiva prima a un dinamismo del settore automotive italiano e ne siamo parte, ne siamo a capo. Abbiamo una forte crescita delle nostre produzioni, soprattutto verso l'Europa, mentre il Sud America e l'Africa Medio Oriente sono molto più in difficoltà con il calo del prezzo del petrolio in particolare. Ecco, voi non avete, cioè il gruppo CNH Industria non ha ancora pubblicato i bilanci del 2015, ma si suppone che, dato l'incremento fortissimo delle vendite che c'è stato, il 2015 sarà per voi l'anno del ritorno all'utile e forse anche di un buon utile, no? Infatti, li abbiamo pubblicati alla fine di gennaio, noi abbiamo portato quasi 300 milioni, 3% di operating profit per Iveco dopo 2 anni di vacche molto magre. Dove 2 anni di perdite, diciamoci la verità, con anche chiusura di stabilimenti. Iveco se l'è vista brutta, ma adesso si è ripresa brillantemente. Sì, anche grazie all'investimento in nuovi prodotti come il nuovo Daily, il nuovo Rocargo. Siamo l'unico costruttore che adesso in produzione ha 4 prodotti dell'anno, il coach dell'anno, 2 truck dell'anno e il van dell'anno. Ecco, voi quanto pensate di crescere ogni anno? Ma se guardiamo al passato le quote che Iveco aveva in Europa, pensiamo di continuare a crescere come abbiamo cresciuto l'anno scorso, dunque dell'ordine di 15-20%. Abbiamo tanto da riprendere, dobbiamo avere la nostra rivincita con le industrie nord-europee o tedesche che ci hanno fatto molto soffrire. Chi è il principale concorrente di Iveco? Sono i costruttori tedeschi, Volkswagen e Daimler. Ah, ecco. Iveco di fatto è una società che ha sede a Torino, ma è italo-francese. Torniamo alla struttura di Iveco, sentite la seconda parte della scheda. Nel 1999 la produzione dei propulsori diesel raggiunge il suo massimo storico, 405.000 unità. Nel 1998 viene lanciato il Cursor 8, seguito l'anno successivo dal Cursor 10, il primo motore diesel con turbina a geometria variabile per veicoli industriali pesanti. L'eccellenza italiana nella produzione di motori per autotrazione trova, anche questa volta, ulteriore conferma. Nel 2003 Irisbus, nata come joint venture con Renault, è totalmente acquisita da Iveco, che diventa uno dei leader mondiali nella produzione di bus. Tuttavia, in Italia, gli acquisti di nuovi bus sono ridotti al minimo dai comuni italiani e questo provocherà, proprio negli anni recenti, una pesante ristrutturazione delle attività industriali italiane di Irisbus. Nel 2004 nasce il marchio Iveco Motors, che riunisce le attività motoristiche e l'anno successivo viene incorporato nella neonata società Fiat Powertrain Technologies. A fine 2004 diventa operativa l'intesa tra Iveco e la società cinese SAIC, Shanghai Automotive Industry Corporation. Nel 2006 Iveco è sponsor delle Olimpiadi di Torino, con una flotta di oltre 1200 autobus Iveco Irisbus. Il 1 gennaio 2011 nasce Fiat Industrial, che comprende le società CNH, Iveco e FPT Industrial. Nel mese di settembre dello stesso anno viene inaugurato a Torino il Fiat Industrial Village, un centro polivalente di Fiat Industrial, realizzato per vendere, assistere e presentare i prodotti dei marchi Iveco, New Holland e FPT Industrial. Il 2013 e il 2014 sono anni di pesante crisi per Iveco, che presenta bilanci con perdite importanti. Nel 2015 inizia una brillante ripresa, sull'onda del nuovo decollo di tutto il mercato automobilistico. Iveco ritorna a produrre utili, cosa che farà anche nel 2016. Iveco, guidata dal brand president Pierre Laut, ha ricavi per circa 10 miliardi di dollari, 25.000 dipendenti e oltre 20 stabilimenti in giro per il mondo. Rieccoci in linea con il dottor Laut, che è brand president di Iveco. Parlavamo delle strategie di crescita. Insomma, nel 2015 si torna all'utile, un utile abbondante, e lei mi parlava di crescere a ritmi del 15-20%? Sì, è l'andamento che osserviamo adesso sul mercato dei veicoli commerciali in Europa, in particolare con il risveglio dell'Europa del Sud, dell'Italia, della Spagna. Ma questi ritmi di crescita quanto potrebbero durare? 2016-2017? sicuramente c'è un ciclo di ripresa che adesso è alimentato anche dalla decisione della BCE, che ci dà buone prospettive per 2017-18, sperando che al di là dell'economia industriale o manufatturiera si riprenda anche la costruzione, che è un settore ancora in fermo, però che dovrebbe riprendere progressivamente. Io ci credo poco alla ripresa delle costruzioni, perché con tutto quello che si è costruito in Italia ho dei dubbi, forse nel resto d'Europa. Però, insomma, questi andamenti così rosei dovrebbero riflettersi anche nella costruzione e nel potenziamento di stabilimenti. Pensate di aprire nuovi impianti, magari in Italia, in Europa, in giro per il mondo? Ma in realtà stiamo ancora nell'ottimizzazione dei nostri impianti, anche se abbiamo portato 3% di operativo l'anno scorso, siamo ancora lontani dai nostri concorrenti che viaggiano tra il 6 e il 9, dunque abbiamo ancora tanto da fare per migliorare la nostra produttività, però per esempio adesso sicuramente abbiamo riportato in Italia su Zara la produzione europea totale del Deli, che finora era fatto sia in Spagna che in Italia, e adesso sarà totalmente fatto a su Zara. Ma ci potranno essere assunzioni? Ma abbiamo un programma, come forse lo sa, no, per trasferire degli operai dal nostro stabilimento di Brescia a Suzzara, e questo per sé è un'assunzione, perché sappiamo che Brescia soffre ancora di un mercato dei camion medi troppo depresso, che è l'unico mercato che non torna, essendo più un fatto strutturale di cambiamento della domanda e delle necessità dei veicoli commerciali. Ecco, ma voi fate anche poi camion giganteschi? Ah, facciamo dei camion giganteschi a Piacenza, dei camion che cominciano a lavorare dove la strada finisce. Ah, bellissimo. E quanto vale la produzione di questi colossi che sono... Ma come si chiamava quella trasmissione? Overland. Ma sono i vostri quelli di Overland? Assolutamente. Ma va? Sì. Allora, i giganteschi camion di Overland sono fatti dalla Iveco a Suzzara, i nostri ascoltatori... I camion di Overland sono già anni che hanno passato, però adesso sono più assumibili a lo che facciamo allo stabilimento Astra di Piacenza, che fabbrica Piacenza. Questi camion che hanno proprio la capacità di andare ovunque. Senta, ma dovrete anche aprire qualche nuovo stabilimento in giro per il mondo? L'ultima domanda, poi purtroppo il tempo è tiranno, la devo lasciare. Ma diciamo che abbiamo delle zone del mondo dove dobbiamo proprio gestire dei stabilimenti in fermo, come il Brasile adesso, che soffre enormemente. Sì. Però l'ultimo aperto è stato quello della Sudafrica, dove sviluppiamo, e adesso non abbiamo altri progetti, siamo più nel consolidare lo che abbiamo appena aperto, però sicuramente la sfida di Iveco è svilupparsi al di là dell'Italia. Dobbiamo chiudere questa trasmissione, però spero di averla nostro ospite nuovamente. Intanto la ringrazio e la saluto. Grazie a voi. Arrivederci alla prossima puntata domani, domenica, ore 13:15.